via banchi, tra sguardi a scatti. Sto come un volo d'uccello di Roshige, sempre proiettato dove non si vede. Essere dentro ciò che sempre più può darti momenti calmi a farsi qualcosa non quadri. Suona un'aria alla Kino X, il man nel frattempo tu piazzi Egon Skill, e suona che è un caricatore che spegne una persona. E suona come frasi d'amore sussurrate ad una pistola, perché qua giù l'odore si fa intenso, dove meno sai che può crescere un fiore, crescono fiori di ciliegio. Sbaglio e mi riconosco sotto ad un ginepro, meglio che saperlo ma non provarlo. Democrito a Mileto che mi legge dentro, una veggente dice come l'anima si trova di più nell'andare dove ancora è buia, mentre il mare qua emerge con la luna crescente. Suona come petali di un crisantemo, come la parte presente anche dove non ci vediamo, ed io Pirandello tra fumo e racheno. Puoi trovarmi qua giù, con sull'occhio una benda, blessa senza conoscenze. Suona tipo l'hip hop, non è mai morto, è sempre stato sottoterra. Si trova di più dove non si vede qua giù, con sull'occhio una benda, blessa senza conoscenze. Suona tipo l'hip hop, non è mai morto, è sempre stato sottoterra. Si trova di più dove non si vede underground. Suona come un piatto da più giorni in cucina, cibi Casarecci, Casarecci. I numeri incantano i serpenti, motivi arabeschi, arabeschi. Qua giù fuori è Sarajevo, dentro Maya Stechi, Maya Stechi. Birre del Bangladesh da grattacieli, nuovo Machiavelli di sti marciapiedi. Gioco con chi sente frequenze sottili e qua si sente schiacciato Abdul Jabbar. Discorsi che sembro in botta già dal mattino, fra l'universo nel caffè come Jean-Luc Godard. Storie che c'ho sotto pelle dentro i tatuaggi, non ho trovato stando dove è chiaro quale Amurabi. Tieniti la ricazza nel niente come ad Abu Dhabi, non il caos dove tutto a posto sempre come samurai.